Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Angelo Cremonini, oli e aceti dall'Emilia Romagna sulle tavole di 120 paesi al mondo, di Anna Marino. Durante la settimana si fa fatica perché si lavora. Con i clienti spesso si lavora pranzando e quindi si fanno affari. In quel modo lì riusciamo a apprezzare i nostri prodotti, farli sentire e farli apprezzare anche ai clienti. Invece nei weekend lì allora riusciamo a prenderci il tempo anche con la famiglia, un piatto di tortellini alla domenica facendo il piacere mangiare caldo anche d'estate. Prendersi il tempo di stare a tavola ogni giorno a pranzo o a cena, dove tra i piatti tipici della tradizione emiliana non solo si sta in famiglia, ma si parla anche dell'impresa. Spiega come si conciliano vita e lavoro Angelo Cremonini, seconda generazione della famiglia alla guida del gruppo Oli Italia, specializzato nella produzione di oli e aceti, appunto a marchio Oli Italia e Giuseppe Cremonini. Il gruppo è presente in oltre 120 paesi nel mondo. Ha registrato nel 2016 un fatturato di circa 180 milioni di euro, di cui circa il 40% all'estero e circa il 60% in Italia. La storia di Oli Italia è legata all'Emilia Romagna, territorio che nel decennio tra il 1970 e l'80 è stato caratterizzato da una crescita esponenziale del settore alberghiero e della ristorazione, trainata dallo sviluppo del turismo proveniente sia dall'Italia che dall'estero. Di qui un nuovo bisogno per i ristoratori: andare oltre i piccoli fornitori abituali e avvalersi di strutture organizzate senza abbassare la qualità, come racconta Angelo Cremonini. La nostra azienda va lontano nella storia, nel senso che mio padre e mio zio e un partner hanno fondato tramite Inalca, nelle carni, un gruppo che si è diversificato, no? In tanti settori. Uno di questi settori è proprio stato l'olio alimentare. Quindi noi come famiglia, poi sull'onda della passione, della volontà di lavorare, di far bene, di creare quindi un business importante, abbiamo sviluppato l'Italia e nel 96 come famiglia Giuseppe Cremonini abbiamo preso il 100% dell'azienda e abbiamo quindi sviluppato una serie di prodotti, abbiamo internazionalizzato l'azienda che allora vendeva solo in 20 paesi, oggi siamo in più di 120 paesi nel mondo. Ricordo che Oli Italia era molto specializzata sulla ristorazione. Il nostro valore aggiunto veniva nel dare il servizio alla Riviera Adriatica, ai ristoranti, agli hotel e non solo, in tutta Italia e oggi nel mondo. Ricordo una fase importante della nostra storia quando c'erano queste aste online, quindi venivano date degli appalti di forniture importanti a prezzi, chiamiamoli così, stracciati. In quel momento lì ci siamo messi in discussione perché per vendere dovevamo vendere sotto costo, quindi ci siamo fatti un esame di coscienza e abbiamo detto: o continuiamo così per una strada che non sappiamo dove ci porta, oppure cambiamo pelle. Pioniere in questa svolta del territorio emiliano, nel 1983 Giuseppe Cremonini risponde a questa esigenza partecipando alla nascita di Oli Italia, ora guidata da Angelo, Camillo e Elisabetta, figli del cofondatore di Inalca, Giuseppe Cremonini, che rimane per tutti una figura di riferimento. Mio padre ha fatto la quinta elementare, quindi una persona molto umile e molto, come posso dire, pratica. Una persona che, come mio zio, è stato cofondatore di Inalca, è una persona che si alzava alle 5 della mattina e finiva a cena con dei clienti. Quindi a tutto tondo era per l'azienda, lo vedevo 2-3 volte alla settimana, ok? E in casa, quando c'era lui, non fiatava una mosca, nel senso che tutti stavano in silenzio, cercavano di capire i momenti. Quando lui parlava con i fornitori o con i clienti, avevamo sempre le antenne alte per capire di che cosa si trattava e quindi assorbivamo quella che era la conoscenza pratica, che è forse quella più importante rispetto agli studi che ho fatto e che abbiamo fatto. Grazie all'esperienza imprenditoriale e alla grande conoscenza maturata nei più diversi settori alimentari, dalla carne ai fast food, dalla pizza surgelata all'acqua minerale, dagli oli agli aceti, l'azienda ha un vantaggio competitivo, come spiega Angelo Cremonini. Noi veniamo da quello che oggi si dice la Food Valley, no? Quindi Emilia Romagna, e per questo ci ha dato tanto, no? Ci ha dato l'esperienza sul cercare di capire quali sono i gusti buoni, no? E quali sono le cose da apprezzare. Questo stile di vita ci ha permesso quindi di fare delle scelte nel nostro business. Quindi mi ricordo che nel 2007 abbiamo fondato la Cetaia, Giuseppe Cremonini, e quello fu un grande passo per noi, perché noi avevamo Oli Italia, quindi oli alimentari, e mio padre spingeva per avere l'aceto. Diceva: noi siamo di Modena, come facciamo a non avere l'aceto? L'olio si abbina bene con l'aceto, no? Quindi, e io e mio fratello lo frenavamo, perché diciamo: guarda che noi oggigiorno bisogna essere specialisti, non si può essere come una volta che tu quello che producevi veniva comprato, no? Quindi abbiamo fatto una partnership con una persona, con un enologo che oggi è un nostro socio, con il quale abbiamo fatto questo progetto che oggi ci sta dando soddisfazioni. E proprio il territorio e il dialetto emiliano sono punti chiave per la vita di impresa e per le risorse umane che lavorano in azienda. Sì, sì, parliamo dialetto emiliano, poi adesso comincio a parlare anche un po' di romagnolo, perché a Forlì, anche se siamo vicini, il dialetto è diverso. C'è gente sincera, c'è gente che ha voglia di lavorare, gente che non si tira indietro, anche al sabato e la domenica. Non abbiamo problemi col personale, perché per fortuna loro già hanno le qualità che noi cerchiamo, vedono nell'azienda un modo di crescere dal punto di vista della carriera e anche come famiglia. Noi tendiamo sempre, chi ha talento, di farlo crescere, diciamo, dove hanno le lacune, di fare dei corsi di formazione per comunque avere una carriera all'interno, perché fa parte della nostra famiglia. Ogni dipendente viene visto come parte della nostra famiglia. Abbiamo dipendenti che sono da noi fin dalla nascita dell'azienda. Un rigido processo di selezione e controllo delle materie prime, dei processi di trasformazione, audit interni ed esterni, garanzie della totale tracciabilità dei prodotti e test e analisi lungo l'intera filiera di produzione, coordinati da un reparto ad hoc che lavora in un laboratorio analisi recentemente ampliato e modernizzato. Per quanto riguarda l'aceto balsamico, la materia prima viene presa in Italia e in particolar modo in Emilia-Romagna. E quindi mosti d'uva, l'aceto di vino per fare l'aceto balsamico. Per quanto riguarda l'olio d'oliva, siccome l'Italia in genere non è autosufficiente, nel senso che la produzione riesce a coprire solo il 30-35% del fabbisogno per il consumo nazionale e l'esportazione, noi ci dobbiamo avvalere non solo del prodotto nazionale, ma anche comprare da Grecia, Spagna, selezionando ovviamente la materia prima, perché in ogni paese c'è la buona produzione e va selezionata e cercando si trova. Noi abbiamo uno staff di persone, abbiamo dei panelisti, cioè gente che assaggia l'olio tutti i giorni, poi in base alla selezione fatta compriamo e lavoriamo il prodotto. L'azienda investe in ricerca e sviluppo circa il 4% del fatturato, per innovare anche dal punto di vista salutistico. Ma da sempre il metodo di assaggiare è nelle corde della famiglia. Così Angelo Cremonini spiega come si riconosce l'olio equilibrato. Una volta non si avevano tutti questi laboratori chimici che servono per capire la genuinità del prodotto. Una volta innanzitutto, ma tuttora oggi si fa l'assaggio, e quindi cosa si va a vedere nell'assaggio? Se l'olio extravergine non ha difetti, magari difetti di lavorazioni o difetti di stoccaggio delle olive, e se ha una nota di fruttato, se è molto fruttato, quindi l'intensità del fruttato, e se è molto amaro o se è molto piccante. In base a questa classifica che viene fatta dall'assaggiatore, noi andiamo a selezionare. Faccio un esempio: se noi abbiamo un olio che viene dalla Puglia, la Coratina, che è famosa per essere molto piccante, forte, che magari al consumatore, presa tal quale, dà questa sensazione di acidità forte, perché è quasi sgradevole, no? Perché è troppo amaro. Però è un olio molto nobile, in quanto è pieno di antiossidanti, un prodotto eccezionale. Miscelato con un olio extravergine invece, magari del nord Italia, più posso dire più dolce, ecco, alla fine miscelando troviamo un profilo ottimale di un olio equilibrato, che è quello che il consumatore riconosce buono, non solo, non direi solo in Italia, ma in tutto il mondo. E la famiglia Cremonini ha anche la sua ricetta per il passaggio generazionale. Nostro padre ci ha sempre insegnato a fare attenzione nei minimi dettagli, no? Mi ricordo che quando mangiavamo il prosciutto di Parma e lasciavo un pezzo di qualcosa, no, nel piatto, mi rimproverà subito. Perché? Perché ne hai preso troppo, no? Quindi il fatto anche di curare i minimi dettagli, di non sciupare, Nostro padre era quasi un po' maniacale, no? E quindi questa attenzione al dettaglio c'è un po' rimasta. L'export ha un forte peso sul fatturato. Ha aumentato del 40% sull'estero negli ultimi 10 anni, con una crescita trainata in particolare dall'area asiatica, Taiwan, Corea del Sud e Cina, e con volumi di produzione di oltre 97 milioni di litri all'anno. Ma i viaggi di Angelo Cremonini toccano molti paesi. È un aneddoto, adesso parlavo di questo prodotto di frittura, in Brasile mi ricordo che col nostro distributore facciamo visita a San Paolo e avevamo appena lanciato questo prodotto di frittura e mi dice: guarda, andiamo dal migliore cliente che ho perché ci vuol parlare, no? Allora andiamo là, a un certo punto viene fuori con 2 piatti di patatine fritte e mi dice: bene, adesso assaggiate le patatine fritte, mi dovete dire le patatine fritte con cui ho usato il vostro olio. E quella era la prova del 9, no? Quindi abbiamo visto che la croccantezza, il fatto che rimanevano comunque croccanti nel tempo, il fatto che non erano unte rispetto all'altro olio che usavano di solito, quindi questo ha fatto la differenza. E abbiamo detto: queste sono, e lui rimase sorpreso. Questo gli ha permesso poi al distributore di convincere il cliente ad acquisire il prodotto. E in ogni paese, in ogni contesto, valgono i valori e il carattere degli emiliani che si rimboccano le maniche, che Angelo Cremonini così sintetizza in una frase dialettale. Bisogna che s'dam da fare. Vuol dire bisogna che ci diamo da fare. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione estesa, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito radio24.it, cliccando sulla pagina programma Voci di Impresa. E curiosando nella sezione Extra, a cura di Anna Marino, potete scrivere i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Impresa è anche Voci di Piccola Impresa. Su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa. A domenica prossima!